Perché sì mesto, padre? O prese Roma, se giunge a vacillare la tua costanza? Parla al cor d'una figlia, la sventura maggiore di tutte le sventure è il tuo dolore. Sì, ma che pensi? In quel silenzio appena riconosco da dove, ove lo sdegno, figlio di tua virtù, dove il coraggio, dove l'anima intrepida e feroce. Cesare abbiamo a fronte, che da serio ci stringe. I nostri armati pochi sono e mal fidi. In ripone la speme che le avanza Roma, che geme al suo tiranno in braccio. E chiedete ragion, se penso e taccio. Ma non viene momenti, Cesare, a te. Mi fa venire dicendo, dunque pace vorrà. Sperate in vano che abbandoni una volta il desio di regnare. Troppo gli costa per deporlo in un punto. Chissà, figlio di Roma, Cesare ancora. Ma un dispietato figlio che serva la desia. Ma un figlio ingrato che per domarla pieno non sente orror nel lacerarle il seno. Tutta Roma non pensa, Cesare ancora, a superare il resto il riparo più forte al suo furore. E che gli resta mai? Resta il tuo cuore, e se dai tuo consiglio rivelati saranno ultima splendida sono i miei. Hanno altre volte sotto luce di cor saputo anch'essi l'aquile latina in questo suono mostrar la fronte e trattenere il volo. M'è noto, e li più nascondi d'accendo il tuo valor l'anima grande a cui fuor che la sorte d'esser figlia di Roma altro non manca. E tu, signor, correggi questa colpa non mia, la tua virtù nell'essen di marzia io da grande modo nuovo legame aggiungi alla nostra missa. Soffri che a porta di sposa dai la mano, non ne sdegni la figlia e son romano. Come? Allor che pavente la nostra libertà l'ultimo capo che a nostri danni armato arde il mondo di bellici furori, parla erbace di nozze e chiede amori. E giorno e nozze ho figlia più al pubblico riposo che alla scelta servire il genio altrui. Principe, non temer, fra poco avrai Marzia tua sposa. In queste braccia intanto del mio paterno amore prendi il pennio primiero e ti rammenta ch'oggi Roma è tua patria. Il tuo dovere, or che romano sei, è di salvarla o di cader con lei.